in primo piano. Le 7 quasi 34 minuti, una buona giornata da Laura Bettini per questa rassegna stampa. Nella prossima mezz'ora insieme vedremo le prime pagine dei quotidiani ed anche alcuni approfondimenti e pagine dei quotidiani che sono fondamentalmente, come potete immaginare, tutte dedicate alla crisi, all'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus e ai tanti malati per questo Covid-19. Iniziamo dal Sole 24 Ore. L'apertura sceglie il Sole 24 Ore, la dedica alla Germania. Merkel, 550 miliardi per le imprese, il piano dell'Unione Europea per gli aiuti, la BCE si corregge rispetto a quella infelice uscita di Christine Lagarde dell'altro ieri. Scrive Sole 24 Ore, bazooka tedesco contro il virus, denaro erogato con strumenti innovativi. La von der Leyen è la presidente della Commissione Europea, il fondo europeo sale a 37 miliardi, saltano i vincoli agli aiuti di Stato. Il governatore Visco, e qui si arriva all'Italia, pronti a intervenire per l'Italia, attenti al rischio spread. Questo è il titolo di apertura. La fotonotizia dedicata invece alla filiera del latte in Italia. Filiere interrotte, il titolo, allarme materie prime per i farmaci, perché il 25% del latte non è ritirato, rischio carenza per i principi dei farmaci, le stalle sono ferme, ne scrivono e leggeremo tra pochissimo Michaela Cappellini nelle pagine interne. E poi sul tema più in generale delle fabbriche a singhiozzo anche Cristina Casadei, fabbriche a singhiozzo per riorganizzare il lavoro. A questo proposito, Sole 24 Ore, non rispetto alla filiera del latte ma all'industria meccanica, poi porta un esempio della Comer Industries di Reggio Emilia, che avendo stabilimenti in Cina ha già riorganizzato tutta la sua filiera produttiva anche in Italia sull'esempio di quello che aveva fatto in Cina per poter continuare a produrre, e spiega appunto come si può fare rivedendo i turni, le pause, lo stop alla mensa, gli spogliatoi, più autisti per l'estero, nel senso che si arriva alle frontiere italiane con un autista e poi si prosegue con un altro autista nel trasporto delle merci, sempre che però le frontiere siano aperte, cosa che come sappiamo non è del tutto garantita in questo momento, ma ci torneremo. Corriere della Sera, bollette ridotte, IVA rinviata, aiuti a famiglie e imprese, l'Unione Europea dice massima flessibilità per Roma, Piazza Affari risale più 7%. Al centro pagina una fotografia, o meglio un collage di fotografie che poi ritroviamo un po' su tutto, molti quotidiani, dedicata agli italiani che ieri sono usciti sui balconi di casa con strumenti musicali più vari, si vedono addirittura dei coperchi di pentola, per cantare, per condividere insieme un momento pur stando separati, ciascuno a casa propria. Canti dalle finestre alla Garbatella, quartiere di Roma, una chitarra in solitudine a Piazza Stuparic, Milano, Paola con la fisarmonica sul balcone di via Dazio, sempre a Milano, insomma sono fotografie del pomeriggio di ieri alle 18. Cronache dal balcone, il titolo della rubrica Il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, che ricorda appunto questo momento. Che cosa avrei mai pensato del mio dirimpettaio fino alla settimana scorsa se si fosse affacciato in vestaglia alla ringhiera del suo terrazzino per cantare All'alba vincerò, stonandola maledettamente oltretutto. Lo ha appena fatto e io ho persino aperto la finestra per applaudirlo, ma lui mi ha spiegato che gli applausi a medici e infermieri sono previsti per domani, e cioè oggi. Il richiamo corre sulla rete con le stesse modalità che in autunno, un secolo fa, propiziarono gli assembramenti di sardine quando stiparsi in piazza non era ancora reato, scrive Gramellini, tra l'altro. Alla Stampa invece l'apertura di nuovo dedicata alla cancelliera Merkel, in pratica Conte Merkel, pioggia di soldi antivirus, il tesoro porterà a Bruxelles uno sforamento del deficit vicino al 4%, lunedì l'Eurogruppo rinvierà le decisioni sul MES, Palazzo Chigi fa slittare il pagamento dell'IVA, 9 settimane di cassa integrazione e sussidi per 5 milioni di lavoratori. E poi ancora dalla stampa: l'Europa è il cuore della pandemia, abbiamo sentito che appunto purtroppo così siamo diventati. Von der Leyen dice sì allo sforamento del patto di stabilità e negli Stati Uniti Trump dichiara l'emergenza nazionale. Anche qui le fotografie in prima pagina sono tutte dedicate ai musicisti di ieri pomeriggio, immagini dall'Italia che ieri pomeriggio si è trovata su terrazzi e balconi per suonare e dare solidarietà a medici e infermieri impegnati nella lotta al coronavirus. C'è poi un intervento dell'ex ministro Siniscalco: reinventare le regole economiche andando oltre Bretton Woods. Questo è il titolo, è chiaro a tutti, scrive tra l'altro Siniscalco, che senza un forte sostegno della domanda e senza una riorganizzazione dei nostri modi di produrre, la crisi sanitaria può generare una profonda recessione con effetti politici e sociali facilmente prevedibili. È chiaro altresì che la politica economica tradizionale mal si presta a questo nuovo compito. E a questo punto andiamo a Repubblica. Repubblica sceglie un titolo come sempre ampio, diciamo, a tutta pagina: Fratelli d'Italia nelle nostre strade deserte, resistere al virus. Quindi oggi Repubblica, diciamo, punta più sulla fratellanza. Nei giorni scorsi abbiamo visto titoli un po' più allarmistici: il coro delle 18 per restare una comunità, i contagi sono quasi 15.000, oggi il decreto con gli aiuti economici, Europa e BCE vi sosterremo. E invece di una collage di fotografie, Repubblica sceglie una vignetta di Altan: ce la faremo e se no ce la faremo. Questo è il messaggio determinato, affermativo. E poi ancora dalla prima di Repubblica: il primo weekend senza weekend, ne scrive Francesco Merlo. Poi Michele Serra: impariamo dalla paura, cambiamo vita, è il commento. L'analisi invece di Tito Boeri: quei lavoratori al fronte, in un'economia di guerra conta soprattutto approvvigionare chi è al fronte ed evitare che le privazioni con cui, cui tutti devono sottoporsi si traducano in un crollo dei consumi che allungherebbe la crisi economica e degenerino in tensioni sociali, scrive Boeri. Importante anche pensare a quando il fronte si sarà spostato altrove. Il Messaggero: virus, tasse rinviate a maggio, in arrivo due decreti per 16 miliardi, sospensione per bollette e mutui, slitta il pagamento dell'IVA. L'UE sospende il patto di stabilità, da Merkel piano da 550 miliardi, credito illimitato per le imprese. Nella fotografia invece sulla prima del Messaggero vediamo i medici cinesi che sono arrivati a Roma e hanno consegnato gli aiuti della Croce Rossa cinese. Poi nei prossimi giorni presteranno aiuto e soprattutto trasferiranno le informazioni che hanno raccolto con la loro esperienza in Cina ai medici degli ospedali italiani che visiteranno da nord a sud. Ovviamente primo tra tutti ci sarà l'Istituto Spallanzani. Libero: il virus elimina l'Europa, ci voleva questo flagello per piegare l'Unione, oggi la solidarietà di Bruxelles è lasciarci indebitare, l'UE blatera ma non tira fuori soldi, scrive Libero, a ogni crisi dimostra di essere una sciagura, gli stati che ci irridevano chiudono come noi. Dunque, Pietro Senaldi, vi leggo giusto l'incipit. Ieri abbiamo aperto Libero titolando che l'Europa se ne frega del virus, oggi si può dire che il virus si prenderà la sua vendetta e ammazzerà l'Europa. I momenti di difficoltà sono il test della solidarietà, della solidità dei rapporti, se vengono superati insieme garantiscono un salto di qualità, se viceversa dividono i protagonisti sono destinati a scavare un solco incolmabile. Il Covid-19, volgarmente conosciuto come corona, si è abbattuto sull'Europa come un corpaccione malandato, i cui organi non hanno mai funzionato armonicamente, perciò ha alte probabilità di rivelarsi letale. Poi le fotografie di Christine Lagarde e Boris Johnson, quando la capa della BCE era la lacchè di Sarkozy, questo è il titolo, lettere imbarazzanti della sostituta di Draghi. E poi per quello che riguarda invece il premier britannico non prende in giro i suoi, Johnson agli inglesi: preparatevi ai lutti. E di questo tema si è ampiamente discusso nelle scorse ore. Andiamo al quotidiano nazionale: tasse, bollette, errate, slitta tutto, l'Italia che canta in coro per combattere, per battere la paura. Da nord a sud la gente si esibisce sui balconi, dilaga il contagio, l'Istituto Superiore di Sanità conferma nessun morto tra giovani in salute, si cerca la cura verso la sperimentazione del farmaco testato a Napoli. E sulla questione delle vittime tra i giovani o tra gli anziani, anche lì la lettura dei numeri è una lettura su cui si cimentano in molti oggi sulle pagine dei quotidiani, con obiettivi anche diversi, chi dimostrare una cosa, chi un'altra. Dal quotidiano nazionale però voglio anche segnalare una protesta: le mascherine inutilizzabili, la Lombardia si ribella, la fornitura con beffa della Protezione Civile. E in questo minuto, prima della viabilità, vado subito a leggervi alcuni passaggi su questa denuncia che compare sul quotidiano nazionale. Secondo quanto QN apprende da una fonte sanitaria qualificata, lo stock da 200.000 mascherine già distribuito negli ospedali lombardi sarebbe stato oggetto di discussione ieri durante la videoconferenza dei direttori delle aziende sociosanitarie e degli istituti IRCCS lombardi per fare il punto sull'emergenza Covid-19. Alcuni direttori hanno sollevato la questione, altri fanno notare che i dispositivi sono privi del marchio CE. E qualcuno ha sottoposto il materiale al proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione, che ha escluso di poterlo utilizzare. Il materiale che si sono trovati in mano i lombardi quando hanno aperto le confezioni della Protezione Civile, come documentato dalle fotografie che vediamo qui sul quotidiano, non aveva tanto l'aspetto di una mascherina quanto di un notissimo panno per fare la polvere, con due buchi ai lati nei quali infilare le orecchie, facendo ben aderire la protezione a naso e bocca, si legge sulla confezione. E la promessa, in stampato sulla busta da 50 pezzi, filtra i batteri, non è stata giudicata sufficiente dalle autorità sanitarie, che hanno quindi deciso di ritirare un lotto da 200.000 mascherine. E così denuncia il quotidiano nazionale la viabilità. In primo piano. Andiamo avanti con la rassegna stampa, con il giornale Togliete le tasse, scrive a lettere Cubitali. Oggi in ritardo il decreto, non fate i furbi. I medici, troppe fughe nel weekend, ora Covid al sud, contagi, Italia record, il generale divieti seri, non inviti, così scrive il giornale. E poi al centro pagina la fotografia di Christine Lagarde, governatrice della Banca Centrale Europea, però a fianco si scrive anche nemica alla BCE, chi è Madame Disastro, al soldo della Germania. Basta con il rigore, scrive il giornale, l'UE ci lascia spendere, però poi ci faranno pagare il conto, scrive Nicola Porro, appunto discutendo delle affermazioni e del poi retromarcia in parte di Christine Lagarde, quando ha detto, no, l'altro giorno, che la BCE non ha tra i suoi compiti di ridurre lo spread. Secondo Porro, non una gaffe ma una rivelazione del pensiero e dell'orientamento della Banca Centrale Europea sotto la sua guida. Il Fatto Quotidiano, come vi dicevo, dei numeri: il virus è meno letale, molti infetti sommersi, i contagiati sono almeno il doppio del dato ufficiale, i morti in Italia restano alti ma sotto il tasso cinese, insomma della frazione non conosciamo il denominatore, cioè il numero dei reali contagiati, e quindi diciamo che il tasso di mortalità può essere, sarà, è probabilmente più basso di quanto non ci dicono adesso i numeri dell'Istituto Superiore di Sanità. Il manifesto dopo il panico BCE, il bazooka dell'UE. Von der Leyen dice: faremo qualsiasi cosa necessaria per sostenere gli europei e la loro economia. Al centro pagina la fotografia anche qui dei medici cinesi arrivati a Roma, la Cina corre in aiuto dell'Italia, e il titolo è: la Cina è vicina. La verità, si sgretola il muro della UE, la BCE fa retromarcia, la Commissione allarga i cordoni della borsa, la Germania si converte al debito, annuncia prestiti per 550 miliardi di euro. Davanti al virus cadono tutte le balle che ci hanno raccontato in questi anni, ma intanto ci hanno messo in mutande. Così la verità, che a centro pagina Ha poi un altro titolo, Rianimazione, Borrelli tradisce i Lombardi, la protezione civile annuncia che non è in grado di approntare i nuovi 500 posti letto di terapia intensiva in fiera, non abbiamo le attrezzature. L'ira di Fontana, cioè del governatore della Lombardia, che risponde ci arrangeremo da soli, questa è la sintesi della Verità. Su Avvenire l'Europa annulla il rigore e il governo apre la borsa, si tratta coi sindacati sulla sicurezza al lavoro, De Micheli dice i trasporti, la ministra dice i trasporti sono garantiti, von der Leyen e la flessibilità assoluta sul patto di stabilità, il decreto economico slitta ancora, Monti dice l'ex premier l'Italia si salverà da sé. Il Papa, questo più specifico su Avvenire, i pastori stiano vicini al loro popolo, Francesco, non sempre le scelte drastiche sono le migliori, dalle risorse dell'8 per 1000, finanziamenti alle Caritas e al Banco Alimentare. Così Avvenire, andiamo anche al secolo XIX. Prima di, sì, il giornale abbiamo già dato conto, il secolo XIX, navi italiane respinte all'estero, questo è il titolo a tutta pagina. Gli armatori al governo, così sono a rischio le forniture. Piano antivirus e il tesoro pronto a uno sforamento vicino al 4%. Crescono i morti in Liguria. Il governatore Toti, state in casa nel weekend, si rischia il collasso. Elezioni regionali verso lo spostamento. E qui, comprensibile. Poi una fotografia della lanterna di Genova al porto. Maratona di solidarietà. L'Italia chiamò, la lanterna si colora. Dunque abbiamo tempo per qualche approfondimento, vi dicevo della fabbrica Comer Industries di Reggio Emilia, qualche passaggio su come si sono riorganizzati per consentire ai lavoratori di lavorare in sicurezza ma per continuare a produrre, amministratore delegato della Comer Industries Matteo Storchi è industriato. È intervistato da Luca Orlando. Per ciascuna auto una sola persona che dopo aver parcheggiato nei pressi della fabbrica esce dalla vettura già pronta al lavoro indossando gli indumenti adatti perché gli spogliatoi sono off limits. Sono alcuni degli accorgimenti anticontagio adottati da Comer Industries, gruppo meccanico di Reggio Emilia, in grado di proseguire nella propria attività dopo aver rivisto numerose procedure interne. Adattamenti necessari per garantire ai lavoratori margini aggiuntivi di sicurezza, mutuati in parte da quanto sperimentato nella fabbrica cinese del gruppo. Palestra certamente sgradita, eppure quanto mai utile in termini di esperienza. Un primo obiettivo, spiega il presidente EAD Matteo Storchi, è stato quello di ridurre la densità delle persone utilizzando lo smart working per quanto possibile, poi distribuendo il personale operativo in modo diverso, dividendolo anzitutto in due turni, uno al mattino e l'altro al pomeriggio, creando comunque dei cluster di montaggio ridotti in cui non vi siano più di 5 persone coinvolte, ciascuna in grado di mantenere distanze di sicurezza rispetto ai colleghi. E poi la revisione dei turni che si accompagnano a diversa gestione delle pause che vengono sequenziate per evitare affollamenti, vietando la visita alla macchina del caffè a più di una persona alla volta. Altro nodo riguarda la mensa, locale ampio per un gruppo che in Italia dà lavoro ad un migliaio di persone. Anche qui l'interazione è stata ridotta al minimo, sostituendo la tradizionale distribuzione del pasto con packed lunch, in grado di essere consumati senza la necessità di code e assembramenti. E via dicendo, appunto, su tutta la filiera, in modo da garantire la produzione che, stando a quanto riferisce Storchi, continua regolarmente e riuscirà a rispondere a tutte le commesse che sono arrivate, anzi commesse che sono in aumento a quanto apprendiamo. Da fabbrica in fabbrica per questi ultimi minuti, la fabbrica dei respiratori che non si ferma mai. Dalle pagine della Stampa il reportage di Franco Giubilei da Bologna, l'azienda 35 dipendenti di Valsamoggia, alle porte di Bologna, l'unica del nostro paese a produrre i preziosissimi ventilatori polmonari che servono a far respirare pazienti gravi ricoverati nelle terapie intensive. Una settimana fa, messo al corrente dell'esistenza della Siara Engineering, il Premier Conte ne ha convocato i vertici a Roma per un incontro urgente con la Protezione Civile. Nel giro di qualche ora è nato un piano straordinario. La produzione dei respiratori, dagli attuali 160 al mese, sarà portata a 500, fino a raggiungere un totale di 2.000, ma per rendere possibile uno scatto del genere, il personale della ditta bolognese sarà affiancato da 25 tecnici dell'esercito. Da questo lunedì i militari entreranno a far parte del nostro organico e comincerà un breve periodo di formazione per integrarli nel processo produttivo, spiega Gianluca Preziosa, direttore generale di Siara Engineering. Già da martedì scorso nell'azienda di Valsamoggia i normali orari di lavoro sono saltati, ma nessuno si lamenta. I dipendenti sono molto sotto pressione. È un bel sacrificio perché c'è gente che arriva a fare 12, 14, 15 ore al giorno, aggiunge il dirigente. Si lavora il sabato, qualcuno la domenica, qualche signora del personale ha le piaghe alle mani a forza di avvitare raccordi. Io stesso sono sempre in azienda e praticamente non dormo più perché ci mandiamo mail di continuo, anche di notte, per aggiornarci a vicenda e scambiarci idee. Funziona così in tempi che, fuori di metafora, ricordano tanto la guerra vera. E poi c'è l'export bloccato. Qui alla Siara l'enorme responsabilità di realizzare apparecchiature salvavite in un momento così delicato la sentono tutte e si comportano di conseguenza. Per far fronte alla prima fornitura abbiamo rinunciato a rifornire i nostri clienti in Corea del Sud, Vietnam, Thailandia e India. E questo ovviamente fa riflettere sulle scelte che si devono fare in questo momento. Abbiamo adesso da dare la linea a GR24, ci ritroviamo come sempre con Si può fare alle 8.30, anche noi oggi saremo in una versione un po' diversa con Carlo Gabardini a casa, Laura Bettini in studio. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto.